passione, nascono i sogni, sboccia un amore. Chissà se i suoi occhi saranno lampare, e i suoi capelli onde del mare, e i suoi capelli onde del mare, e i suoi capelli onde del mare. Ma caro paese che mi lasci andare, chissà se un giorno mi vedrai tornare, cantando una vecchia canzone d'amore. Lumare, lumare, lui è tulu sulle. Lumare, lumare, lui è tulu sulle. Lumare, lumare, lui è tulu sulle. Lumare, lumare, lui è tulu sulle. Lumare, lumare, lui è tulu sulle. Lumare, lumare, lui è tulu sulle. Ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata. Ma ora ti saluto, mia bella addormentata. Italia, dolce Italia, t'ho cercata, t'ho baciata. Ma ora ti saluto, oh mia bella addormentata. Sulle note di questa ballata dell'emigrante, ultimo singolo di Luca Bassanese, vi leggiamo un illuminante decalogo che il blogger Massimo Sibilio, emigrato in Gran Bretagna, ha pubblicato online. 10 buone ragioni per lasciare l'Italia, scrive. Sentite dunque perché lasciare il bel paese. Perché se mi comporto onestamente sono un fesso. Perché ho bisogno delle raccomandazioni per fare tutto, tutto quello che mi spetta di diritto e senza raccomandazioni. Perché se voglio lavorare bene, sono visto male, perché ingolfo tutti gli altri e se possono, ti fanno da parte e se non possono, cercano di eliminarti. Perché negli ultimi 20, e dico 20 anni, non sono riuscito a partecipare a un concorso pubblico dove non si conoscesse già il vincitore e perché nessuno si chiede come mai, per alcuni posti, non si facciano proprio i concorsi. Perché non si è mai tenuto conto di tutto quello che avevo fatto. Perché si pensa sempre che siccome sei un professionista non hai bisogno di soldi e quindi ti pagano dopo 6 mesi. O comunque ti pagano dopo 6 mesi e se c'è qualche problema amministrativo non ti pagano affatto e danno per scontato che tu lo debba accettare. Perché molti manager sono incompetenti, piazzati da qualche loro amico politico ancora più ignorante. Perché ho visto emeriti idioti ottenere ciò per cui io sto ancora faticando solo perché conoscevano la persona giusta, o hanno portato la borsa alla persona giusta, o hanno pagato la persona giusta, o hanno minacciato la persona giusta, oppure sono loro stessi la persona giusta una volta tanto. Perché molti di quelli che si lamentavano e predicavano di stare nelle tue stesse condizioni si sono rivelati essere i primi a volerti fregare e ti hanno fregato senza un minimo di lealtà, voltandoti le spalle e prendendoti anche in giro. Perché forse sono veramente un fesso, ma anche riconoscere questo è stata una conquista che non devo a nessuno. 10 buone ragioni per lasciare l'Italia. Massimo Sibilio, italiano in Gran Bretagna. Grazie. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Quote Giovani. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di maggio. Quote giovani nelle assunzioni in posizioni dirigenziali, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche. Lo chiedono i giovani secondo una recente indagine di Coldiretti. Siete d'accordo? Più under 40 nelle posizioni di management in modo obbligatorio? Diteci la vostra. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it.